buon incontro. Grazie. Allora, c'è sempre questo momento all'inizio delle presentazioni di Wu Ming, che sarebbe irrituale nelle presentazioni di qualunque altro scrittore. Noi chiediamo cortesemente sempre di non essere fotografati né ripresi, perché da oltre un quarto di secolo portiamo avanti questa linea di apparire solamente in carne e ossa. Apparire solamente col corpo, senza mediazioni elettroniche, non apparire in effigie su uno schermo, essere riconosciuti per la strada perché qualcuno col suo corpo è stato in un luogo insieme al nostro corpo. Per noi questo è molto importante, essere riconosciuti perché sia un vissuto comune, anche solo di una serata, perché si è vissuto un'esperienza insieme, e non perché identifichi la mia faccia con un balluginio di pixel in un reel, in una storia o cose del genere. E 26 anni fa, quando presentavamo il nostro primo romanzo Q, abbiamo cominciato questa cosa, questa prassi. Era molto più facile perché c'erano molte meno macchine fotografiche in giro. Adesso chiunque ha una fotocamera e videocamera sul proprio telefonino, c'è un po' la compulsione a fotografare sempre qualunque cosa, chiunque, in qualunque momento, e poi spesso a diramarla in una frazione di secondo verso un numero imprecisato di persone, nelle chat, sui social, eccetera. Quindi ci chiedono spesso: ma voi come fate oggi con questo panorama mediatico completamente trasformato rispetto a quando avete cominciato? Come fate a mantenere questa linea? Perché effettivamente vostre foto non se ne trovano. E noi diciamo: perché la spieghiamo questa cosa? E quindi quando la spieghi, e spieghi che per te ha un valore importante anche politico, le persone la rispettano. E infatti, se cercate Wu Ming 1 su Google, compare il volto di chiunque tranne il mio. Compare addirittura Franco Franchi in Ultimo Tango a Zagarone. Compare Zero Calcare, compare Don Winslow, compare chiunque, compare anche uno con scritto Wu Ming 1 davanti, una targhetta a un tavolo da conferenziere, ma non sono io, perché l'avevo spostata davanti a quello di fianco, che poi è stato plurifotografato. E quindi, insomma, riusciamo ancora oggi ad hackerare l'algoritmo di Google e a sottrarci a questo meccanismo, a produrre un po' di attrito, ecco, dentro questo meccanismo, questo grande ingranaggio di Big Tech. È poca roba, è un pugnetto di sabbia, ma per noi è qualcosa, è una clausola di stile a cui non rinunciamo, e quindi anche oggi vi chiedo di aiutarci a continuare così. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Dobro Danzen. È la terza presentazione che ho il piacere e l'onore di fare di questo libro assieme a Wu Ming 1. La prima era stata a Pordenone questa primavera, la seconda l'abbiamo fatta sempre qui a Trieste in occasione del Lunatico Festival a Borgo San Sergio, e oggi siamo qui grazie all'invito di Raffaella e di Lovat, che ringrazio. Grazie ovviamente a tutte e tutti voi per essere qui stamattina. Un bel orario, tra l'altro, per fare le presentazioni. Non capita spesso, ma questa idea del sabato mattina io credo sia valida. Gli uomini pesce. Tento di, per chi non l'avesse letto, chi l'ha letto sa che fare le presentazioni di questo libro presenta almeno due difficoltà. Una è la complessità della trama, dell'intreccio, dei personaggi, delle situazioni e dei temi. Quindi questa complessità tocca in qualche modo scegliere, e stamattina tenteremo di scegliere quello che possiamo, quello che vale la pena magari sviscerare oggi e lasciare da parte altro. L'altro è il problema di stare attenti a non fare spoiler, perché nel libro ci sono effettivamente molti colpi di scena, ci sono molti elementi per i quali la sorpresa ha un significato che va al di là della cattura dell'attenzione del lettore. Magari di questo dopo parleremo se ci sarà occasione. Il nucleo narrativo iniziale di questo libro consiste nella morte di una persona ormai centenaria, 98 anni credo abbia Ilario Nevi al momento della sua morte, e ruota attorno soprattutto alla figura, che è anche la voce narrante del libro, di sua nipote Antonia Nevi, che è una geografa, e una geografa che ha, grazie proprio a Ilario, ha scelto di fare la geografa, perché grazie al punto di vista di questo strano personaggio, che è stato partigiano ma è stato anche cineasta, pittore, è stato anche poi in seguito anche attivista ecologista e ha portato avanti questo suo impegno politico in assoluta continuità, come vedremo e come Wuming ci spiegherà sicuramente, in assoluta continuità con quella che è stata la sua vicenda partigiana e di combattente, portandolo avanti poi per diversi anni. L'inizio appunto parte dalla morte di Lario che lascia un'eredità complessa sia dal punto di vista materiale, perché di mezzo ci sono somme importanti di denaro, ci sono degli appartamenti, delle case, ci sono anche dei terreni che apparentemente non hanno nessun valore, c'è ovviamente un archivio, e tutta una serie di tracce di memoria che poi prendono significato e importanza nel corso della narrazione. E ci sono però anche, c'è anche un segreto importante che emerge pubblicamente, un segreto custodito per addirittura un secolo, uno di quei segreti impossibili, dice uno dei personaggi, credo dica, uno di quei segreti impossibili da mantenere e che invece per un secolo viene conservato gelosamente e emerge solo al momento della morte di Lario. Noi questo segreto oggi ovviamente non lo riveliamo perché fa parte integrante appunto di quei momenti della trama che segnano una svolta dal punto di vista non solo narrativo ma anche di significato. A partire da questo nucleo narrativo iniziale in cui compaiono tutta una serie di personaggi, compare la famiglia allargata e stretta di Antonia, di Lario, e appare soprattutto il contesto geografico, i luoghi in cui questo romanzo si svolge. E in particolare inizia ad apparire quello che per certi versi, e questa sarà la mia prima domanda, ovvero se Po, più che il Po come siamo abituati a chiamarlo, se Po invece di essere solamente un testimone muto delle vicende umane, in un qualche modo non sia un vero e proprio personaggio di questo libro. Un personaggio che in un qualche modo ne segna anche le scansioni temporali, perché il romanzo si svolge su tre piani temporali, uno è quello appunto del nostro presente, che io definirei presente post-pandemico, poi tenteremo anche di spiegare, sì, di spiegare perché. Si svolge questo presente, è importante ricordare questo aspetto, Ilario Nevi muore alla fine di luglio del 2022, è il periodo che voi tutti ricorderete, perché tutti ce ne ricordiamo, in cui in quel contesto il Po era assolutamente in secca. Era una delle estati più torride in assoluto, anche se adesso ormai siamo avviati ad abituarci a bruciare i record di anno in anno, o di biennio in biennio, di triennio in triennio, questo sicuramente parleremo. Era l'estate in cui qua, ad esempio, ricorderete, bruciava il Carso. Il Isonzo era in secca tanto quanto il Po. In quel piano temporale del presente poi inevitabilmente torna la storia, torna ovviamente la storia del piano temporale della Resistenza, ma torna la storia anche del dopoguerra, soprattutto degli anni 60-70, degli anni della strategia della tensione, ma anche degli anni in cui inizia ad affacciarsi il tema ecologista, in cui inizia ad affacciarsi per alcuni, in particolare per Ilario Nevi, che sarà uno dei più radicali da questo punto di vista, il tema del fatto che forse il paradigma produttivo a cui ci si è votati in quel dopoguerra, anche e soprattutto da un punto di vista progressivo e progressista, forse non era così azzeccato come si riteneva in quel momento. Quindi do la parola a Roberto per iniziare soprattutto a parlare di questo personaggio del libro che è il Po. Sì, allora, grazie Andrea. Allora, sì, il Po, il suo delta, il suo ultimo tratto e il territorio che il fiume ha ripetutamente trasformato, sconvolto, nutrito, terrorizzato nel corso, diciamo, almeno dell'ultimo mezzo millennio. Il delta significa quella roba lì, e quella parte di territorio che si apre a Ventaglio poco prima di Ferrara, verso est, e poi in realtà è un territorio che va dalle foci dell'Adige, quindi al confine tra la provincia di Rovigo e quella di Venezia, fino alle saline di Cervia, quindi nella Romagna meridionale. oggi il delta viene associato principalmente a quella protuberanza che vediamo nella mappa e che si allontana, si allunga dalla linea di costa di una trentina di chilometri circa, quasi tutta in provincia di Rovigo, però in realtà per delta si deve intendere un territorio molto più vasto che comprende anche gli alvei che il Po nel corso dei secoli ha lasciato, spostandosi sempre più a nord, e altri rami del fiume che sono stati canalizzati, oggi sono corsi d'acqua artificiali, sono canali della bonifica. E poi bisogna comprendere tutte le zone umide anche che queste trasformazioni hanno creato, le zone umide che il fiume ha lasciato dietro di sé e che sono state soggette diciamo per un secolo, dagli anni 70 dell'Ottocento agli anni 70 del Novecento, sono state soggette, soprattutto in provincia di Ferrara, a massicci prosciugamenti. L'idea era quella di non lasciare più nessuno scampolo di palude per ottenere terre per il nuovo modello, il nuovo modo di produzione che si sta imponendo, cioè quello del capitalismo agricolo. Quel territorio è stato radicalmente riplasmato, riprogettato, ingegnerizzato. Oggi è un vero e proprio macchinario, perché bisogna capire che quando vediamo la campagna, la pianura totale da un orizzonte all'altro, in realtà quella parvenza lì è mantenuta da delle tecnologie, che funzionano 24 ore su 24. E sono 80, solo in provincia di Ferrara, 80 impianti di sollevamento delle acque e 4.000 km di canali che permettono di incanalare quell'acqua verso l'Adriatico. È un territorio che senza quelle tecnologie ogni volta che piove finirebbe sott'acqua, perché è sotto il livello del mare. E anche questa è una conseguenza dei prosciugamenti, perché quando bonifichi una zona umida, poi quel terreno, asciugandosi, è soggetto a quella che si chiama costipazione, si restringe, si abbassa, sprofonda. Non contenti, lì hanno fatto estrazioni per 30 anni di gas naturale dal sottosuolo, quindi svuotandolo, e quindi abbiamo delle zone di provincia di Ferrara o di provincia di Rovigo che sono 5 metri sotto il livello del mare. Dico sempre questa cosa: in provincia di Ferrara c'è il luogo abitato più basso d'Italia, un paese che si chiama Le Contane, nel comune di Iolanda di Savoia, che è 4 metri e mezzo sotto il livello del mare. Quindi quando mi dicono tu che vieni dalla pianura, dico no, io vengo da più in basso, io non sono un uomo di pianura. Per me ad esempio la bassa Padovana è un altopiano, per me, ecco, anche la bassa Bolognese per me sono degli altopiani, vengo da molto più in basso di così. Però appunto è un territorio che è così basso per via dell'azione antropica, per quello che ha fatto il capitalismo in quel territorio, con l'appoggio anche di chi in teoria era per un altro modo di produzione. Però comunque le magnifiche sorti dello sviluppo, del progresso, non sono state contestate da nessuno per 100 anni, finché negli anni 70 non ci sono state delle lotte per fermarle le bonifiche. Tra l'altro bonifica è un termine ideologico, perché contiene già in sé la parola buono. Quindi in Italia quando dici che lui ha fatto le bonifiche, lui con la L maiuscola, ma anche qualcun altro, però ha fatto le bonifiche, sembra che abbia fatto per forza una cosa buona. Da noi quei prosciugamenti hanno avuto effetti sociali e ambientali devastanti, hanno reso il territorio fragile, ha reso il territorio debole, sovraesposto a quella che oggi è la crisi climatica. È un territorio che rimane emerso per il rotto della cuffia, si fa sempre più fatica a tenerlo emerso, è sempre più dispendioso, è sempre più difficile tecnicamente, ma soprattutto, e qui arrivo al punto, l'Adriatico si sta alzando. L'Adriatico si sta alzando, le coste sono in erosione, il suolo è in subsidenza. Entro la fine di questo secolo si calcola che l'Adriatico si alzerà di oltre un metro. E dove ha di fronte un territorio così basso, proprio una conca, un catino, quello che succederà è evidente, quella conca verrà riempita. Il mio territorio tornerà sott'acqua, si sono fatti sforzi titanici per far emergere la terra, ma l'acqua ritornerà. E questo è stato lo spunto iniziale per scrivere Gli uomini pesci, il futuro incombente su quel territorio, un paesaggio che ha una parvenza tipo Matrix, no? È una parvenza ingannevole. Cioè, è come in Matrix, tu hai un apparire del mondo che però appare così per via di tecnologie, per via di macchine che lavorano incessantemente perché il mondo appaia così. È un paesaggio che se venissero spente, venisse staccata la spina a quelle macchine, tornerebbe sott'acqua nel giro di pochissimo. Però la cosa paradossale è che per tutto l'anno si fa di tutto per liberarsi dell'acqua, perché sennò si finisce sommersi, e poi arriva la siccità e quell'acqua di cui ti sei liberato per tutto l'anno la rimpiangi, quindi ne hai o troppa o troppo poca. È un territorio paradossale, contraddittorio, appunto, ripeto, fragile, debole, e mi è venuto in mente di raccontarlo perché io vengo da lì. Cioè, io sono del Delta, sono del Delta Ferrarese, sono nato e cresciuto dentro quel macchinario di cui sopra. E quando nel 2017 mi è venuta l'idea di raccontarlo quel territorio, fin da subito ho voluto farne un personaggio, quindi non semplicemente un fondale, una quinta teatrale su cui far muovere solo gli umani, ma far sì che questo territorio si facesse sentire, dicesse la propria con i suoi mezzi, con i suoi linguaggi. E si facesse sentire, premesse sempre per impedire di essere relegato sullo sfondo, ma si facesse avanti continuamente a interferire con le traiettorie, con le esistenze dei personaggi umani. E poi ho pensato, i personaggi umani devono rispecchiarsi in questo territorio. Quando ho cominciato a creare i personaggi umani, appunto Ilario, Antonio, Erminio, Sonic, ho pensato, ciascuno di questi deve avere dentro di sé, nella propria interiorità, nel proprio modo di vivere, nel proprio modo di porsi, deve avere una caratteristica simile a una del territorio. Così ho pensato, un personaggio deve essere in secca, Antonia, è in secca, infatti nel primo capitolo guarda un po' in secca e dice sono così anch'io. Ilario ha delle caratteristiche che sono tipiche delle zone umide, è un personaggio anfibio. Sonic è i suoni del Delta, Sonic, musicista dall'udito sopraffino che tutto il tempo fa registrazioni ambientali e sente cantare un uccello particolare a 2 chilometri di distanza. Sonic è la grana acustica del Delta, appunto i canti degli uccelli, lo sciabordio delle acque, lo scorrere del fiume e dei canali. Il criterio è stato quello, il fatto che il personaggio per me dovesse essere, il personaggio non umano, il territorio dovesse essere pervasivo, ha fatto sì che ne facciano parte anche gli umani, cioè anche gli umani sono parte del territorio e in effetti è così, anche noi siamo parte del territorio, no? Siamo una componente del territorio, e questa è stata la chiave con cui anche tutto il resto è arrivato, l'intreccio, i temi. Tutto parte da una matrice geografica, non a caso il geografo Francesco Visentin, che ha presentato insieme a noi due questo romanzo al Lunatico quest'estate, nella sua recensione lo ha definito un romanzo geografico, non più un romanzo storico, anche se la storia c'è ed è importante, ma principalmente un romanzo geografico. Un romanzo geografico dove peraltro assistiamo a una, per noi soprattutto di queste zone, a una, quando viene descritta, una resistenza assolutamente anomala rispetto a quella a cui siamo abituati. Per dire, nel libro si dice le valli, noi siamo immediatamente portati a pensare alla valle come qualcosa racchiuso tra due o più montagne o comunque alture e via dicendo, mentre le valli, nel Delta del Po, sono tutt'altro. E in quel tutt'altro si muove la resistenza partigiana in quegli anni, mostrando appunto come si è modificato moltissimo quel territorio, perché c'è un certo punto uno dei personaggi dice se oggi dovessimo fare la resistenza qui saremmo come dei birilli su una tavola da biliardo, visibilissimi e colpibili, mentre all'epoca le valli e il delta avevano una struttura completamente diversa. Per cui entriamo in questo universo e Roberto lo riconosce più volte, ad esempio l'Agnese va a morire di Renata Viganò è stato uno dei testi fondamentali per descrivere quel territorio, e vedrete che dopo aver letto Gli uomini pesce avrete voglia di andare a rileggervelo o a leggerlo per la prima volta se non l'avete ancora fatto, e sarà una lettura che vi lascerà assolutamente attoniti e piacevolmente sorpresi, chiusa parentesi su questo. Però appunto assistiamo a una resistenza anomala, sono anomali anche gli stessi partigiani per certi versi, in particolare i due con cui abbiamo a che fare più direttamente, ovvero Ilario stesso e Erminio Squarzanti, suo amico, compagno storico e con cui condividono moltissimo, come scopriremo nel corso della storia. Erminio Squarzanti era già apparso nel romanzo precedente di Bunning 1, La macchina del vento, perché Erminio Squarzanti era uno dei confinati a Ventotene assieme a Sandro Pertini e a molti altri, all'epoca del famoso e famigerato per molti versi manifesto di Ventotene. Per cui abbiamo dei partigiani che per molti versi soprattutto non corrispondono esattamente all'ideale di mascolinità che il mito un po' agiografico della resistenza ci ha consegnato. Lo stesso accade per tante altre figure maschili del libro. Il primo è Sonic, sicuramente compagno di Antonia, perché lui e Antonia hanno attraversato un trauma pesantissimo. Questo lo possiamo rivelare, la perdita di due gemelle mentre Antonia era incinta durante un incidente stradale. Per questa cosa Sonic si sente pesantemente in colpa e, come dice Antonia a un certo punto, ritiene di non essere stato abbastanza uomo in quella situazione, malgrado non avesse responsabilità dirette per quell'incidente. Ma poi ci sono altre figure maschili che sono abbastanza dipinte in contratti peculiari, soprattutto provenendo da un autore di sesso maschile. Ci sono gli spermatorroici della famiglia, i cosiddetti spermatorroici della famiglia Nevi, che è una famiglia assolutamente matriarcale come conformazione, per lo più composta da donne. Gli spermatorroici sono spariti dalla scena generalmente perché sono stati cacciati o allontanati in qualche modo dalla famiglia dopo aver compiuto il loro unico dovere, che era quello appunto che potete immaginare dal nomignolo che gli è stato affibbiato in famiglia. E ci sono anche altri personaggi come il cugino di Antonia, che ci porta nel paradosso della sua figura un po' comica e ridicola, ci porta a ragionare sul fatto che sul un tema, leggevo in una recensione molto ben sviscerato, il tema del trauma. Ci torneremo dopo parlando anche di un altro aspetto del libro. La domanda è: perché hai fatto questa scelta e soprattutto come ti sei preparato per affrontare qualcosa che non mi sembra appartenesse ad altri romanzi precedenti dei tuoi, ovvero parlare attraverso una narratrice, cioè parlare dal punto di vista soggettivo di una donna. Sì. Allora, sì, la tematica di genere è molto forte nel romanzo e questo rispetto ai romanzi precedenti di Wu Ming segna uno scarto, cioè non che non ci fosse la questione di genere anche in altri nostri romanzi, però qui assume una centralità e soprattutto tinteggia tutto, insomma colora tutto, dalla resistenza alla geografia, insomma la questione di genere connota praticamente tutte le scene del romanzo, un po' perché appunto è sessuato lo sguardo soggettivo della protagonista che parla in io narrante. Antonia appunto è una donna peraltro piena di traumi legati ad esperienze profondamente corporee, esperienze intime e corporee, quindi è un trauma molto, molto incarnato. Il suo non è solo appunto quello dell'incidente stradale, ma c'è anche come ha vissuto i due anni di Covid, la fase di ipocorporeità, come la chiamo, del poco corpo durante il biennio pandemico, il rarefarsi delle relazioni sociali, l'epidemia di solitudine e poi il dolore fortissimo per la morte di Ilario, accompagnato al cruccio di non riuscire a piangere, perché appunto lei è un personaggio in secca, sono mesi che non ha il ciclo perché è una ricaduta del Covid, e non riesce a piangere, cioè le mancano dei fluidi, è proprio in secca, e lei è angosciata per la siccità che sta flagellando il territorio, che sta attanagliando le campagne ferraresi, che sta seccando i fiumi, e al tempo stesso ha il cruccio di questa anche sua siccità interiore, come dicevo all'inizio. Il suo sguardo è fortemente situato, sessuato e incorporato. Ogni esperienza che viene filtrata dal suo flusso di coscienza e dal suo sguardo finisce per essere appunto sessuata, situata, incorporata, e soprattutto la sua indagine su suo zio, perché questa è la storia di come appunto Antonia fa ricerca, cioè quello che lei fa di lavoro, perché è docente di geografia culturale, fa ricerca, la ricerca è la sua professione, ma qui deve fare ricerca su qualcosa di molto intimo, i segreti di suo zio, persona con cui lei aveva un rapporto speciale e scopre che sì, è vero che era un rapporto speciale, ma era diverso da quello che lei credeva. Non è solo la sua erede culturale designata, la sua nipote prediletta che si è innamorata del territorio attraverso l'esempio di suo zio, documentarista, attivista ecologista e quant'altro, ma è qualcosa di più complicato. E però appunto questa indagine è proprio un'indagine fatta col corpo, attraversando i luoghi, appunto si diceva proprio all'inizio dell'annuncio l'importanza. Qui c'è una distinzione tra spazio e luogo, ma in cui magari dopo torneremo, l'importanza di calcare coi corpi dei luoghi, quindi non dei meri spazi, ma dei luoghi che abbiano una loro storia, un loro senso, un loro stratificarsi di significati per chi li vive e per chi li attraversa, e li attraversa col corpo. Appunto, lei fa questo, deve riconquistare il territorio dopo 2 anni dove spesso gli spostamenti non erano possibili, non erano auspicati, erano puniti addirittura, e quindi lei è vissuta lontano dal suo territorio, quello di cui si occupa, quello in cui è cresciuta, e ci deve tornare per fare questa indagine. Tutto è molto corporeo e chiaramente il corpo di Antonia è completamente diverso dal mio. Nello scrivere di Antonia e dei suoi traumi non ho potuto attingere a una memoria fisica, a una memoria appunto sensoriale, muscolare, a esperienze fatte col mio corpo, perché il mio corpo è completamente diverso da quello di Antonia e non ha potuto e non potrebbe in nessun caso avere le stesse esperienze che ha avuto lei. Quindi come ci ho lavorato è stato impegnativo. E infatti a volte mi hanno chiesto, all'inizio del tour mi chiedevano, ma perché hai fatto questa scelta, ti sei complicato la vita così? Allora uno scrittore deve complicarsi la vita, cioè non puoi scrivere, cioè cercare di scrivere solo quello che sai già scrivere. Ogni volta devi cercare di scrivere cose che non sapevi scrivere prima, cioè bisogna alzare l'asticella continuamente, bisogna sfidarsi, la letteratura è questo, altrimenti diventa carta da parati verbale, tappezzeria per dei momenti così di svago, ma è poco più, cosa che poi non ti ricordi, libri che non fanno attrito, che vanno giù lisci come acqua fresca, di quelli che dici ah l'ho divorato in 3 ore, e di cosa parla? Perché te li dimentichi subito, e invece bisogna scrivere dei libri che producano anche attrito e che siano ricordabili, non dico memorabili perché un po' iperbolico è diventato questo aggettivo, quindi ricordabili, no? E quindi tra le varie scelte che ho fatto per complicarmi la vita ulteriormente c'è stata questa dell'io narrante femminile per 600 pagine. E la sfida a renderlo credibile, sfaccettato, a tutto tondo, che non fosse stereotipato, non fosse una proiezione maschile e basta, insomma quella è stata la grossa sfida, e la risolvi, cioè la risolvi, cioè cerchi di risolverla la questione con l'ascolto, con l'empatia, rimanendo concentrato, camminando sulle uova, affidandoti alle donne che hai intorno a te e a paia di occhi femminili per le letture di prova. Ecco, cioè tutte queste cose assieme mi hanno indirizzato, mi hanno aiutato, mi hanno incanalato in quella direzione. Dopodiché, come si diceva, la questione di genere è più complicata di così, ma faremo spoiler, c'è sempre questa cosa, no? Per cui alle presentazioni, io sto facendo anche degli incontri rivolti solo a chi ha già letto il libro, l'ho fatto a Ferrara l'altro ieri, ad esempio, e lì parti proprio spoilerando tutto, e c'è piena libertà, però invece alle presentazioni c'è sempre questa cosa, ma questo non lo possiamo dire perché faremo spoiler, questo non lo possiamo dire perché faremo spoiler. E funziona dal punto di vista del marketing, perché la gente dopo pensa, ma che cazzo c'è scritto questo libro? Cioè che e lui dopo insomma, incuriosita lo prende e lo legge, però effettivamente è la prima cosa che ha detto Andrea all'inizio, alle presentazioni bisogna un po' fare lo slalom, bisogna un po' fare lo slalom, quindi riuscire a parlare dei temi senza però arrivare in quel punto dove i temi e l'intreccio sono innervati e inseparabili, e lì non ti puoi avventurare perché riveleresti delle cose del coup del teatro. Comunque ecco, per quanto riguarda corporeità, genere, io narrante femminile, ecco il quadro è quello che ho dato. Anche sui temi non è facile, come dicevo all'inizio, nel senso che se ci mettiamo di mezzo la tematica ecologica in senso stretto, la resistenza antifascista, la pandemia e le conseguenze della pandemia e via dicendo, e tutta un'altra serie di questioni, la questione di genere appunto, eccetera, comincia a diventare complicato fare sintesi e scegliere. Però le presentazioni invece possiamo dire, ci siamo arrivati infatti, e ti terrei su questo, possiamo arrivare invece al fatto di come si compongono certi libri, certi romanzi, certe storie, perché come notava anche il bello di fare le recensioni dopo molti mesi e che puoi andare a leggerti, di fare le presentazioni dopo molti mesi che puoi andare a leggerti un sacco di recensioni che hanno fatti altri e prendere degli spunti. Certo, questo è uno dei nostri libri più recensiti in assoluto. Infatti, però ce n'è due o tre che hanno effettivamente, una in particolare era particolarmente interessante anche perché è una questione che negli anni abbiamo anche Vuming ha affrontato in molte situazioni, a partire da quel memorandum sull'Italian Epic, ma poi ci abbiamo ragionato in tanti fino ad arrivare alla collana Quinto Tipo e a tutta un'altra serie di ragionamenti sugli uno, gli oggetti narrativi non identificati e via dicendo. E uno di questi recensori, non ricordo il nome, mi dispiace, ma magari poi si recupera, a un certo punto faceva notare che utilizzare la fiction nel metodo, nel modo in cui lo fanno Vuming, non è un semplice, posto che dietro ogni libro c'è un lavoro d'archivio importante, veramente importante, ma utilizzare la fiction non è un semplice riempitivo o un modo per rendere più attraente, fantastica la situazione che si sta descrivendo e i materiali di archivio che si stanno utilizzando, ma invece è qualcos'altro che va al di là di questo. E infatti ci ritroviamo con Antonia, lo stesso personaggio del libro, che in un qualche modo è coinvolta in questo stesso metodo, perché in qualche modo la sua ricerca diventa un'avventura nella quale a un certo punto questa avventura viene addirittura espressa graficamente con uno di quei cosiddetti crazy wall, quei muri matti che vediamo di solito nei telefilm, nelle serie poliziesche, soprattutto di questi ultimi decenni, e che invece ad Antonia serve per crearsi uno schema di tutto quello che sta scoprendo. Lì c'è anche un meccanismo metanarrativo in qualche modo che ha a che fare, ecco, mi piacerebbe che parlassi di questo, visto che comunque una costante nelle presentazioni negli anni eccetera, ne abbiamo fatte assieme diverse, e comunque sembra una certa curiosità da parte di chi interviene sul modo in cui si scrive. Sì, nella teoria della letteratura, soprattutto quella di impronta fenomenologica, quindi in Italia Luciano Anceschi, che ha insegnato per decenni estetica proprio al mio Ateneo, all'Università di Bologna, e i cui libri lessi anche per preparare vari esami eccetera, e che è stato un maestro di molti. Anche Bifo ogni tanto dice: il mio maestro è stato Luciano Anceschi, quindi una figura che oggi non ricorda più nessuno, ma che è fondamentale. E lui usava questa espressione, che poi molti usano senza sapere che la matrice è quella lì: dichiarazione di poetica. La dichiarazione di poetica in quella scuola di teoria letteraria è il momento in cui lo scrittore racconta come scrive, come lavora. La poetica, nel senso del fare, da poiein, dal verbo greco del fare, però è anche la poetica nel senso di che risonanze cerco, che connotazioni cerco di dare alla prosa, allo stile, qual è la missione etica che vedo anche dentro questo lavoro. Quindi si potrebbe anche dire che è poi etica, e poi la poietica poi è anche etica, ecco, con questo gioco di parole un po' derridiano che mi è venuto così, un po' la Derrida, ecco, un po' la Derrida. Allora, io la dichiarazione di poetica nel corso degli anni l'ho inserita sempre di più nella stesura stessa del libro, cioè nella trama stessa del libro. Ad esempio il Crazy Wall è una mia dichiarazione di poetica, perché ovviamente poi la gente mi chiede: ma quindi anche tu ti sei fatto i Crazy Wall? Certo, anch'io mi sono fatto i Crazy Wall per poter gestire la complessità della trama, ma addirittura io portavo in giro un Crazy Wall animato, interattivo, con dentro video, musica eccetera, che era una sorta di conferenza spettacolo che si chiamava Blues per le Terre Nuove, che ho portato in giro nel ferrarese e nel bolognese per due anni, nel 2018-2019, che mi serviva per testare in pubblico i materiali, cioè per le storie che stavo trovando, scartabellando e scarpinando ad un certo punto erano tale cornucopia di storie e di materiali che mi sono detto le metto tutte insieme e poi cerco un riscontro, capire esattamente quali inserire, come vedere la risposta delle persone, e quindi andavo in giro a raccontarle con alle spalle un crazy wall interattivo fatto con questo programma che io uso sempre che si chiama Prezi, quindi era anche un crazy wall, oggi siamo proprio a... ecco, era un crazy wall, ma mi vengo così, cioè così, se c'era la mattina, sì, sarà la mattina, sto secernendo calambur. E questa cosa mi è servita moltissimo, quindi quel crazy wall è una mia dichiarazione poetica, cioè mettere la dichiarazione poetica nella storia stessa. Anche il lavoro d'archivio che fa Antonia è il mio, è una dichiarazione poetica raccontare l'archivio come scoperta continua, la ricerca come avventura, giustissimo, la ricerca come avventura, e il rapporto tra archivio e strada. Perché una delle immagini che usiamo sempre nel Wuming è andare dove l'archivio incontra la strada e viceversa. Che significa? In realtà è molto semplice. Spesso uno si documenta, legge tantissimo di un certo periodo, di un certo territorio, e ad un certo punto scopre che nel tal luogo è successa una cosa che la colpisce e quindi decide di andare a fare un sopralluogo per vedere quali tracce di quell'evento sono sopravvissute, quali solchi proprio ha lasciato quell'evento accadendo proprio in quel luogo. Poi vai lì e magari quelle tracce non le trovi, ma ti accorgi di qualcos'altro, un manufatto particolare, un edificio che sembrerebbe fuori posto, qualunque cosa, e allora torni in archivio per capire cos'è. Il movimento è continuo dall'archivio verso la strada e dalla strada verso l'archivio. In questo caso le strade sono strade sterrate, strade arginali, cioè perché stiamo parlando di luoghi prevalentemente rurali, però vale uguale, l'archivio è la strada. È il lavoro che fa Antonia per tutto il romanzo ed è il lavoro che faccio io, quindi di fatto Antonia fa la mia dichiarazione di poetica, sia con il Crazy Wall sia con il lavoro d'archivio. Gestire questa complessità di temi e di sottotrame chiaramente è stato impegnativo, non a caso questo libro è rimasto in cantiere 7 anni, perché l'idea mi è venuta dal 2017 al 2024. Io ho lavorato a questo libro, non è che ho fatto solo quello in quei 7 anni, ma ho fatto sempre quello, cioè anche quando lavoravo ad altri progetti comunque stavo continuando a lavorare in archivio, studiare, andare a fare i sopralluoghi, scalettare, finché poi negli ultimi 2 anni ho fatto solo quello. I primi 5 comunque sono stati un'accumulazione primitiva di storie, di spunti, di personaggi, di luoghi da visitare. Allora, uno deve anche inventarsi o reinventarsi delle tecniche per poter scrivere un libro così. Ad esempio, a me è servito molto Gianni Rodari. Nella grammatica della fantasia, Gianni Rodari suggerisce diversi metodi per inventare storie, prevalentemente attività laboratoriali per bambini, ma che vanno benissimo anche per gli adulti. La più famosa di tutte è il binomio fantastico, cioè prendi due parole che apparentemente non c'entrano assolutamente nulla con l'altra e poi fai una storia in cui ci siano entrambe. Ecco, io avevo una pletora in realtà di appunti, di storie, di temi che volevo inserire nel romanzo, quindi non si tratta di un binomio, si tratta di un plurinomio fantastico. Cioè lì la forzatura è stata inventare una storia dove tutte queste cose ci siano, riuscire a collegarle tutte e possibilmente in modi spiazzanti, in modi stranianti, perturbanti, che generino sorpresa. Ora, perché tutti quei temi? L'ultima cosa che dico in questa risposta. Perché la realtà è così. La realtà è così. I problemi non si avvicendano, non si danno il turno, in ogni momento noi ce li abbiamo tutti quanti. In questo momento stiamo patendo la crisi climatica con un novembre a 20 gradi, con gli animali che non riescono ad andare in letargo e tutto quanto. Allo stesso tempo abbiamo un panorama di guerra globale, e le due cose sono molto collegate, abbiamo un'offensiva reazionaria sulla scuola e sulla cultura portata avanti a livello italiano, ma direi continentale e panoccidentale, cioè abbiamo tantissime cose tutte assieme, compresenti. Noi riusciamo a concentrarci, perché abbiamo una mente limitata, riusciamo a concentrarci solo su una alla volta. per cui non riesci ad esempio a mobilitarti su tutto quello che sta succedendo, devi scegliere un tema, quello che in quel momento è il più urgente, è il più eclatante, e nelle ultime settimane, negli ultimi mesi è stato ovviamente il genocidio palestinese, no? E quando usi tutte quelle energie per mobilitarti per il genocidio palestinese non lo puoi fare sulla crisi climatica, purtroppo siamo così, no? Ma la letteratura può anche aiutare a trovare una multifocalità. La letteratura può fare cose che altre forme di discorso non possono fare, per cui tu in un romanzo puoi mettere a punto la crisi climatica, la questione di genere, l'eredità della resistenza e tutte queste cose. Il romanzo può reggere anche questo livello di complessità. A volte mi chiedono, ma scusa, mi hanno detto che è un romanzo sulla crisi climatica e sulla resistenza, ma come fai a tenerla assieme? C'è un personaggio che le tiene assieme, è la biografia di Ilaria, ad esempio, no? Questa è una tecnica, far sì che un personaggio sia vissuto abbastanza lungo per essersi potuto occupare del problema dell'invasione nazista e del problema della crisi climatica nel Delta. Lui appunto muore, come si diceva, che ha quasi 100 anni, 98 anni e mezzo, e quindi nel suo arco di vita e di attivismo non c'è stata una rottura di continuità tra l'aver combattuto contro i nazifascisti e poi nell'aver combattuto contro gli scempi ambientali. Per lui è sempre resistente, è sempre essere partigiani. E questa cosa, io un po' scherzando, l'ho personificata nei turisti tedeschi che vanno al mare in Riviera, che per lui è la continuazione dell'invasione nazista con altri mezzi. Per lui i turisti tedeschi spesso poi sono proprio le stesse persone, dice, questa qua è gente di mezza età, probabilmente la volta prima è arrivata qua in uniforme, no? Da noi per un po' non si sono fatti vedere, poi negli anni 60 sono tornati. Immaginavo se uno come Scipio Slata per arrivasse a Trieste oggi si troverebbe un po' in difficoltà, visto che anche lui era un po' germanofobo. Sì, per i turisti austriaci intendi? La turisti, grande ma anche nuovi residenti. Anche nuovi residenti, sì. Giustamente, cioè, sì, in realtà sì. È un aspetto contraddittorio e anche interessante questo. Una popolazione tedesca, di lingua tedesca, in questa città c'è sempre stata storicamente. Sì. Questi ultimi anni la vediamo con altre forme. Ma non era di questo che volevo parlare, perché parlavamo di binomi fantastici, di personaggi che riassumono. Ilario Meli, nel fare quello che Roberto stava raccontando, che fa durante tutto il libro, è un personaggio anche bello scomodo, cioè non è uno che viene portato subito in palmo di mano, eccetera, è anche un rompicoglioni, passatemi il termine, riconosciuto, che ad esempio alla presentazione del libro, tra l'altro un inciso, uno dei libri pubblicati da Antonia Nevi è una storia, si chiama Igor Mortis, ed è la ricostruzione che lei da geografa fa della vicenda di Igor il Russo, questo personaggio che a un certo punto nel Polesine sembra incarnare tutte le capacità di guerriglia contro guerriglia, ma anche di cattiveria sovrumana, il male assoluto, senza essere mai catturato da uno spiegamento di forze dell'ordine impressionante. Episodio che risuona per certi versi con quello a cui stavo arrivando adesso. Ilario a un certo punto, all'età di 96 anni, prende posizioni molto scomode anche rispetto alle misure che vengono prese nel periodo della pandemia. Lui da vaccinato, e questa cosa mi risuonava molto anche autobiografica, perché proprio per JAP, per il sito, per il blog della Lumin Foundation, a fine 2021 decidemmo di farmi scrivere un reportage su quel che succedeva al Varco 4 qui del porto di Trieste, cosa che mi ha causato, perdonate l'inciso autobiografico, ma una volta lo devo dire sta roba qua, mi ha causato delle incomprensioni non da poco, tuttora anche irrisolte in alcuni casi, o non dette, eccetera. Questa cosa del non risolvere, del non dire, e del non torna spesso nel libro, tutto il tema delle misure pandemiche ritorna continuamente, perché Ilario appunto ha preso delle posizioni abbastanza nette, proprio a partire probabilmente dal suo modo di intendere cosa sia resistenza, cosa sia antifascismo, cosa sia anche evitare di piombare in una dinamica di controllo quasi dittatoriale, e prende, prende queste posizioni, ma sono posizioni che in un qualche modo lui dopo ha anche difficoltà a riuscire a portare avanti, cioè, non riesce a trovare immediatamente il modo di conciliare una polarizzazione che invece si è data in maniera talmente radicale che praticamente risulta impossibile spiegarsi. Risulta impossibile parlarsi, riprendere, e le relazioni si sfilacciano, eccetera. C'è un'altra figura, anzi c'è un aspetto di tutto il libro che non abbiamo ancora minimamente toccato, ovvero il fatto che comunque già dal titolo si dovrebbe intuire che Gli uomini pesce ha molto a che fare anche col fantastico. Certo. Ha a che fare col fantastico, per certi versi quasi col magico, potremmo dire. C'è un'altra figura che riassume molto bene quel gioco rodariano di cui parlavi prima, che è un tale dottor Stegagno, che è una figura abbastanza oscura del libro, ma anche una figura sicuramente, proprio per il fatto di essere oscura, anche affascinante, e che in sé tiene anche due aspetti abbastanza contraddittori in apparenza, che sono quelli appunto del pensiero scientifico, del metodo scientifico, e quelli invece del, vogliamo chiamarlo, il pensiero magico, l'alchimia, eccetera. In che modo è servito e perché era necessario parlare, mettere anche la pandemia dentro, sì, dentro questo libro? Quando ho scelto l'estate del 2022 come piano del presente, diciamo, no? Cioè, il presente è sempre un po' allargato, vuol dire qualche anno addietro e il momento che stiamo vivendo adesso e probabilmente anche, insomma, il futuro imminente, no? Quando diciamo il presente non intendiamo proprio letteralmente il presente dura una frazione di secondo, no? È già passato, è un vecchio dilemma filosofico questo qui, però in storiografia ad esempio il presente intende, insomma, l'ultima manciata di anni, ecco, il momento in cui stiamo vivendo, la fase storica in cui ci troviamo. Quando ho deciso che uno dei tre piani temporali dovesse ambientarsi nella fase storica in cui ci troviamo, non avevo ancora ben chiaro il punto esatto in cui situarla, però vagando per il Delta nell'estate del 2022, vedendolo così afflitto dalla siccità, ho pensato questo è il punto, questo è il momento, il che però comportava che il romanzo sarebbe stato post-pandemico, perché nell'estate del 2022 noi eravamo con un piede e mezzo fuori dallo stato di emergenza, ma avevamo ancora mezzo piede dentro. La maggior parte dei provvedimenti erano stati ritirati, ma ce n'erano ancora invece vigenti. All'inizio Antonia prende un autobus e deve mettere la mascherina, perché sui mezzi la mascherina è stata obbligatoria fino a settembre del 2022 e nelle strutture sanitarie anche molto più a lungo. Quindi eravamo ancora lì. Questo significava che nell'estate del 2022 i miei personaggi sarebbero stati tutti freschi reduci di quel biennio, ancora disorientati, rintronati, traumatizzati appunto da questa polarizzazione che ha spaccato famiglie, troncato amicizie, generato incomprensioni a valanga, interrotto collaborazioni. A noi, ad esempio, la scelta di per quei due anni mantenere una sfera di discorso critico sui provvedimenti, pur mai negando quello che stava accadendo e addirittura da vaccinati, a spanne ci ha fatto perdere un terzo dei lettori. Lo sapevamo e l'abbiamo fatto lo stesso perché pensavamo che fosse giusto. Adesso pian piano stanno tornando a Canossa, sai, ci sono quei lettori, quella categoria di lettori che non sopporta di essere in disaccordo con lo scrittore. Dice, no, ma non sono d'accordo e quindi non lo leggo più. Allora io non dovrei leggere Mario Vargas Llosa, appunto, l'esempio che faccio sempre, perché politicamente era distantissimo da me, un turbo liberista sfrenato che negli ultimi tempi ha appoggiato Bolsonaro e Milei, però grandissimo romanziere. In teoria non dovrei leggerlo. In buona sostanza, non era possibile un discorso terzo che sfuggisse alla logica continua della polarizzazione. Si muovesse più, ecco, più una diade, più e meno. a volte più, a volte meno, ma non scegliere per forza un opposto o un altro. Questa cosa ad un certo punto è stata impossibile per come funzionano gli algoritmi dei social, che cercano engagement, cercano chiacchiericcio aggressivo, perché così generano più dati, e quindi ad un certo punto ci si è trovati tutti prigionieri di questo grande dispositivo. Quindi i miei personaggi, lo sapevo che a quel punto sarebbero stati in quella fase lì, dopo il terremoto delle relazioni, perché c'è stato un terremoto delle relazioni e nell'estate del 2022 appunto ancora si annaspava, no? Si tastava il territorio per vedere con chi posso tornare a parlare e con chi no. Antonia è esattamente in quella fase, ma in realtà tutti i personaggi sono in quella fase, a parte Ilario che è morto, sono in quella fase lì. E la famiglia Nevi è una famiglia che si è spaccata, perché nel cugino Dante, a cui si accennava all'inizio, abbiamo una parte della famiglia che ha scelto di attaccare l'altra, anche in pubblico, anche con interviste, perché stiamo parlando di una famiglia che ha una celebrità nel proprio seno, no? Anzi ne ha due ormai, perché anche Antonia con il libro su Igor il Russo si è fatta conoscere, è diventata comunque una saggista di successo, e quindi abbiamo due personaggi molto noti, quindi le vicende di quella famiglia attirano attenzione mediatica ancora prima che Ilario muoia. E quindi il cugino Dante rilascia delle interviste contro Ilario dicendo si è rincoglionito e tutte queste cose. Antonia è ancora lì dentro con la testa, no? È nel post-Covid, anche fisicamente, perché ha avuto il Covid, non ne sono ancora tornate olfatto e gusto, c'è tutte delle menomazioni legate al fatto che ha avuto il Covid, e spesso è capitato che si perdesse olfatto e gusto, soprattutto le donne, e lei è esattamente in quella condizione lì. A quel punto io questa condizione l'ho narrata. La pandemia in Europa, in Italia e in Europa occidentale quantomeno, la pandemia è la cosa più grossa mai successa nelle nostre vite. Noi non abbiamo vissuto dei genocidi, bombardamenti a tappeto delle nostre città, guerre etniche. Cioè noi abbiamo però vissuto la pandemia, che è stata una cosa su quella scala senza precedenti, e sono stati 2 anni in cui la nostra realtà si è capovolta. È la cosa più grossa che ci è mai successa, almeno che ci è successa tutto in una volta, perché in realtà la crisi climatica è ancora più grossa, però non la percepiamo come travolgente, come tutto in una volta. La pandemia è arrivata tutto in una volta. Cosa deve fare la letteratura? Raccontarla questa cosa. Però quando è uscito Gli Uomini Pesce, nelle recensioni ha cominciato a scrivere: questo è il primo romanzo italiano post-pandemico. Però erano passati 4 anni dalla pandemia, no? Ed è il primo romanzo post-pandemico. Cosa significa questo? Cosa implica? Detto, implica che nessun collega romanziere finora ci aveva pensato. O se qualcuno ci ha pensato, non ha ancora finito di scrivere. Insomma, mi ha un po' turbato questa cosa del primo romanzo post-pandemico, perché non è una buona notizia per me. Non è un primato, ah, figo, io ho scritto il primo romanzo post-pandemico. Io la recepisco come una notizia problematica, perché vuol dire che c'è stato un deficit di presa in carico da parte della letteratura di un'esperienza sconvolgente come è stata la pandemia, e quindi per me è un problema. Mentre scrivevo non me lo sono posto. Quando uno scrive è totalmente immerso nella scrittura, e non è che pensavo, figo, ci metto la pandemia perché sarò il primo a farlo. No, io in realtà davo per scontato che altri colleghi e colleghe stessero lavorando su questa cosa, no? E invece a tutt'oggi, a fine 2025, non sono entrati nel mio schermo del radar, ma neanche nello schermo del radar di chi ha recensito il libro, non sono uscite altre cose che trattino quel periodo. E io vedo quindi che la letteratura sta scontando la stessa cosa che sta scontando il resto del panorama culturale. Il rimosso, l'amnesia. Ormai quei 2 anni lì sono nebbiosi, sono nebulosi, sono avvolti da una foschia e molti dettagli non li vediamo più. Io spesso alle presentazioni faccio un po' di domande. Qualcuno si ricorda qual è la differenza tra Green Pass e Green Pass rafforzato? E nessuno si ricorda. Vi ricordate cos'è il CTS? Eppure erano cose che sapevamo benissimo. Sapevamo tutte le marche dei vaccini, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik. Da noi c'era la gente che andava a San Marino perché a San Marino si facevano lo Sputnik, il vaccino russo, no? Quindi sapevamo le marche dei vaccini. Ma è stato tossicodipendente. Sì, sì, esatto, per andare a San Marino, no? Veramente lì andrebbe Amsterdam. Lì andrebbe scritto un romanzo su quelli che andavano a San Marino a farsi il vaccino Sputnik. E sapevamo, ad esempio, io mi ricordo per settimane la gente si è accapigliata sul conto di una persona che non aveva mai sentito nominare prima e che oggi non si ricorda neanche più chi sia, era un tale Walter Ricciardi, uno che faceva parte del CTS, però era un ex attore di film con Nino D'Angelo, e quindi c'era questa stranissima cosa per cui aveva avuto due vite. Nei film tra l'altro era tutto boccoluto, ricciolone, invece poi quando si occupava di pandemia era pelato, quindi era difficile anche associarlo al suo passato, e per settimane si è parlato di sto qua, nessuno si ricorda più chi fosse, tant'è che non ho visto nessun lampo di riconoscimento nei vostri sguardi. Avevamo accumulato un sapere pratico sui provvedimenti, sulle precauzioni, sulla distanza da tenere, sapevamo tutto, perché quei dettagli ci servivano a navigare una quotidianità che era stata sconvolta. Oggi quel sapere ce lo siamo dimenticati, è un sapere puramente utilitario, effimero, legato a una particolare situazione. Terminata quella situazione, ci stiamo dimenticando tutto. La gente non si ricorda neanche più che vaccino si è fatta. Quasi tutti Pfizer, però qualcuno ha fatto in tempo a farsi AstraZeneca. Vi ricordate perché fu ritirato AstraZeneca? Quasi nessuno si ricorda, nessuno in realtà. Una ragazza di 18 anni a Genova che dopo il vaccino AstraZeneca è morta e quindi cautelativamente si è deciso di... Tutte cose che appartengono a un passato che sembra remoto, invece ieri, però è un problema il fatto che non se ne sia più parlato del biennio pandemico. È un problema che non sia stato messo a tema, che non ci sia stata una discussione generalizzata su quei due anni lì. È un grosso problema perché ci disarma. Se dovesse capitare un'altra pandemia come quella, ci ritroveremmo in braghe di tela come ci siamo trovati all'inizio di quella là. Nel frattempo la sanità pubblica si è continuata a smantellarla, non è che si è invertita la rotta. E lo smantellamento della sanità pubblica ha avuto un grosso ruolo. Quindi non si è risolta nessuna delle condizioni. E non se ne è più parlato, e io me ne sono reso conto tanto più in questo anno di tour, quando parlo di queste cose vedo le persone che all'improvviso si ricordano di essersi dimenticate, ti dicono è vero, non me la ricordo più quella cosa lì. Invece i miei personaggi nel romanzo se ne ricordano, vuoi perché è appena accaduto, ma vuoi perché non vogliono dimenticarsene. E quindi è diventato proprio materia della trama del romanzo. È un romanzo post-pandemico. Torno praticamente avviandoci alla chiusura, ma quindi è l'ultima domanda che ti farò io, dopo vediamo se c'è qualcuno che vuole intervenire. Ma quando dicevi del fatto che è stato considerato il primo romanzo post-pandemico e facevi questa osservazione pessimistica appunto rispetto a, cioè il fatto che non sia una buona notizia questa, risuonava un po' quanto avevi detto quest'estate ricordando quello scritto di Amitav Ghosh che invece si chiedeva come mai gli autori a livello internazionale avessero così tanta difficoltà e aggirassero un po' il fatto di parlare proprio di crisi climatica, cosa che nel frattempo in parte si è ovviamente raddrizzata grazie a molte cose che sono uscite, tra cui anche questo libro qua indubbiamente, per certi versi anche quello di Giovanni Cattabriga di Volume 2, che approfitto verrà presentato a Trieste il 25 prossimo all'Ariston, tra l'altro in dialogo con Pietro Spirito, per cui una serata anche particolarmente interessante. E, però appunto la questione della cosiddetta letteratura ecologica, della letteratura ambientale, ne avevamo parlato in maniera un po' più approfondita quando con Visentin quest'estate, ma adesso non ci addentriamo di nuovo a questo perché vorrei portarti su un altro libro in cui però sei coinvolto, perché hai spinto parecchio con Alegre perché venisse tradotto, sei stato tra quelli che ha promosso la traduzione di Né verticale né orizzontale di Rodrigo Nunes. E perché ne parlo adesso? Perché mi è venuta in mente una cosa che aveva scritto Enrico Manera, credo, che descrivendo gli Uomini Pesce parlava di un libro soffuso di luce e di speranza. Perché ci tengo a dirlo a fine presentazione, perché sennò sembra che fino adesso abbiamo parlato del fiume in secca, degli umani in secca come il fiume, tragedie, casini, pandemie e compagnia bella. Ma in realtà il libro, e non perché ci sia o meno un happy ending o che altro, ma piuttosto perché appunto io concordo con Enrico che nel libro c'è molta speranza, e la speranza deriva però credo proprio dal fatto di fare i conti con quello che un po' per certi versi mi sembra sia uno dei messaggi che il libro contiene, in qualche modo, passami il termine, cioè il fatto che comunque anche di fronte a quello che sembra catastrofico, la vita, la natura in generale, e noi come parte della natura, con la consapevolezza finalmente di essere parte della natura e non più con questo atteggiamento antropocentrico a cui siamo stati abituati, ci permettono abbiamo ancora la possibilità di stupirci, di restare sorpresi per le traiettorie imprevedibili che prendono certe cose. Io ad esempio quest'estate non avrei detto che in Italia le piazze di questo paese si sarebbero riempite come hanno fatto e nelle modalità in cui l'hanno fatto. Il libro di Rodrigo Nunes parla proprio di questo, parla della speranza in qualche modo, perché tenta di fare i conti dal punto di vista teorico con il fatto che appunto negli ultimi decenni su questo pianeta assistiamo all'emergere di movimenti veramente spettacolari, certe volte nemmeno ce ne accorgiamo. Io ho un'esperienza diretta che riguarda, vorrei chiedere quanti qui dentro sanno che in Serbia c'è da un anno un movimento che sta portando in piazza centinaia di migliaia di persone. In realtà la Serbia ce l'abbiamo qui dietro, ma ne sappiamo quasi niente, anche degli aspetti innovativi. Sappiamo molto poco di quei movimenti cosiddetti con solite banalizzazioni giornalistiche della generazione Z, che in posti come la Malesia piuttosto che l'Indonesia sono scesi in piazza e hanno messo in crisi interi sistemi politici in certi momenti. Nunes ci invita in un qualche modo a fare quello che tu fai nel libro, cioè a ribaltare l'idea dell'ecologia come qualcosa di settoriale, di specifico, che ci riguarda ma fino a un certo punto, perché poi in realtà riguarda gli alberi, la natura, eccetera, ma noi comunque siamo esseri metropolitani, urbanizzati, abbiamo tecnicizzati appunto e via dicendo. E Nunes in qualche modo, proprio per tentare di analizzare come mai questi movimenti appaiono e poi di colpo scompaiono, non riescono a radicare una presenza e quindi di conseguenza anche un cambiamento duraturo e la possibilità di un cambiamento radicale. È che di fronte alla catastrofe ecologica, di fronte alla crisi climatica, il rischio della catastrofe è invece un imperativo in qualche modo. E mi piacerebbe capire se condividi il fatto che ci sia in un fondo un parallelo tra queste due e se il paradigma ecologico in effetti possa cominciare a diventare anche il paradigma secondo il quale i sistemi umani iniziano a cambiare il loro modo di organizzarsi, di auto-organizzarsi. Sì, Rodrigo Nunes sostiene che il motivo per cui si passa da fasi altissime di detonazione sociale e politica, di movimenti di massa che magari per settimane cambiano l'apparire del mondo e poi subito dopo ci sia la secca, perché il drastico calo dell'energia in circolazione lascia poco o nulla, lui sostiene sia perché non siamo consapevoli del fatto che i movimenti sono ecosistemi. Una volta che noi ne siamo consapevoli, li possiamo curare in quanto tali, quindi curare le relazioni, curare la loro intrinseca pluralità. Invece si è cercato per troppo tempo di ridurre il molteplice a uno, cioè qual è la forma organizzativa ideale che un movimento deve avere, e quindi ci si è divisi tra orizzontalisti a oltranza, per cui non deve esserci nessuna delega, non si vota alle assemblee, qualunque meccanismo che abbia anche solo un vago sentore di delega viene rigettata retoricamente, perché poi questi movimenti senza leader, come fa a notare Rodrigo, hanno semplicemente dei leader nascosti, dei leader informali, no? E quindi si è passati dalla retorica orizzontalista oltranza a quando poi questa, appunto, dopo due o tre volte che portava alla secca, sono venuti fuori quelli che hanno detto no, bisogna tornare al partito, e quindi la risposta è nel verticalismo, e quindi c'è stata tutta questa fase dell'investimento in Podemos, in Syriza, nella France Insoumise, nella Labour Party di Corbyn, nella, insomma, il tentativo di prendersi il Partito Democratico Americano da parte dei seguaci di Bernie Sanders, però anche quella cosa lì era sbagliata, perché non esiste la forma organizzativa, perché i movimenti, le lotte, le mobilitazioni sono ecosistemi dove varie forme di vita e quindi varie forme di organizzazione coesistono. Se ne sono consapevoli, allora coesistono bene, in maniera virtuosa. Non è neanche necessario che, ad esempio, due forme di vita, due forme di organizzazione collaborino direttamente, perché comunque ci sia un'influenza reciproca. Lui fa l'esempio di Malcolm X e Martin Luther King, che è una cosa che hanno fatto notare entrambi, sia Malcolm sia Martin Luther King, hanno fatto notare che ciascuno dei due aiutava l'altro, perché l'opzione radicale di Malcolm X era usata da Martin Luther King e dalla sua gente per dire guardate che se non date retta a noi ci sono quelli là. E questa è una dialettica interessante, no? Non c'era ancora il Black Panther Party nel 65 quando Malcolm X è morto, ma c'erano già delle formazioni radicali. Lui diceva vi conviene darmi retta e muovervi nella direzione che io dico, perché altrimenti l'alternativa sono gli altri. E Malcolm X era ben consapevole di giocare questo ruolo, infatti ad un certo punto ha cominciato ad accentuare una radicalità di toni e in privato diceva perché questo può aiutare il dottor King. Quindi non c'era una collaborazione diretta tra queste due forme, però si influenzavano positivamente a vicenda, e questo è solo uno dei tanti possibili esempi, però bisogna esserne consapevoli, loro due ne erano consapevoli di questa cosa, invece spesso si cerca di annichilirsi a vicenda, per cui il peggior nemico diventa quello che ha una forma organizzativa e un'opzione diversa dalla tua all'interno dello stesso movimento. Nunes dice, se noi siamo consapevoli che c'è un'ecologia politica, che i movimenti sono ecosistemi, allora possiamo accettarne la pluralità, c'è chi è per la forma partito e chi no, però entrambi sono parte di un ecosistema, c'è chi crede alla delega e chi non ci crede, c'è chi fa gli scontri e chi fa gli esposti legali, è una pluralità non solo di tattiche ma proprio di modelli organizzativi che però possono agire insieme perché sono parte di uno stesso ecosistema. E lui dice, non è che io sto proponendo qualcosa di nuovo, propongo di riconoscere quello che già c'è, perché tutti i movimenti sono ecosistemi. A un certo punto dice, c'è stata molta retorica sulle reti, ci sono solo reti, tutto è una rete, anche un'organizzazione verticale è una rete, semplicemente è una rete centralizzata. Lui non propone modelli organizzativi nuovi, ma propone uno sguardo nuovo su quello che già esiste per potersene prendere cura meglio. E questa è ecologia politica e quindi è un paradigma ecologico che può attraversare la letteratura, la teoria, le lotte, e se ne siamo consapevoli ne avremo tutto da guadagnare. Ultima cosa, mi collego. Voglio ricordare che una delle prime situazioni in cui Wuming arrivò a Trieste risale addirittura a 25 anni fa, con una presentazione alla Indertat. C'è anche Alberto Volpi. Esatto. Visto che l'avevamo fondata assieme, purtroppo non esiste più. E successivamente, subito dopo, nel 2001, con la partecipazione assieme a quello che fu l'apertura ufficiale del ciclo dei vertici del G8 di quell'anno, nel 2001, il G8 Ambiente qui a Trieste. Sì. Questo per dire, perché nelle ultime settimane uno dei quotidiani di questa città, segnatamente quello in lingua italiana che va sotto il nome di Piccolo, affrontato, diciamo, in maniera un po' sensazionalistica all'inizio, poi hanno aggiustato il tiro per fortuna e Giovanni Tomasini ad esempio ha fatto un resoconto molto puntuale e assolutamente interessante dell'incontro con Wuming 4 su Tolkien, però da principio sembrava che Wuming fosse una banda di extraterrestri che arrivava a Trieste per la prima volta, che non sapevano. Era dura riuscire a venire a capo di sta roba qua, perché dovevi spiegargli, ma guarda che già il secondo romanzo, il terzo romanzo collettivo che hanno scritto, 54 addirittura, il prologo si svolgeva a Trieste e pensa, nel novembre del 53, durante gli scontri in cui morì Pierino Addobbati e molti altri, e quindi in un contesto che dovrebbe essere abbastanza nelle corde anche dal punto di vista della memoria storica di alcune persone che stanno nella redazione del Piccolo. Poi sembrava appunto che questo Vumin 4 dovesse buttare via il biglietto del treno perché a Trieste nessuno non avrebbe messo piede, perché a Monfalcone ormai c'è una frontiera invalicabile, eccetera. Siamo qua, è il secondo incontro durante il mese con Vumin, sono in tre, per cui più di tre è difficile farne. Ripeto, il 25 all'Ariston ci sarà Vumin 2, Giovanni Cantabriga, presenterà Mensaleri, che è un altro romanzo molto interessante e assolutamente splendido da leggere. Non so nemmeno io se chiederti anche qualcosa al riguardo, oppure lasciare che comunque siano altri, magari se qualcuno... Ma qualcosa dico, noi abbiamo scelto di ignorare con una calma olimpica le polemiche sollevate dal Piccolo, che poi hanno portato anche un'esternazione del sindaco. Noi non abbiamo scritto su Giap, non ci siamo scacciati le vesti dicendo non ci vogliono, perché tanto saremmo venuti comunque, e quindi questa strategia ha pagato, perché non dando nessuna soddisfazione a questo tipo di logiche, poi abbiamo potuto fare l'evento di Federico, di Vumin 4, tra l'altro con un pienone di gente, senza accennare minimamente a questa cosa. Adesso se ne può anche parlare, volendo, insomma. Ecco, riassumo l'esternazione di Di Piazza che ha fatto in un'intervista. Di Piazza cadrà, questa era la nostra. Ecco. Non è una profezia, esatto. No, infatti, non è difficile da dire. Ecco, questa intervista, questa dichiarazione televisiva, disse che si prendeva la responsabilità lui di tenere Vumin lontani da Trieste, perché non vogliamo gente che viene a far casino, negazionisti di tutto e cose del genere. E allora, il fatto che Di Piazza non ci voglia è semplicemente un incentivo a continuare a venire, e quindi, e tra l'altro, viviamo più noi di lui, perché lui a un certo punto, insomma, smetterà di essere sindaco, noi continueremo a venire a presentare qua i nostri libri. Ah sì, ricordo anche, ovviamente, subito dopo Vumin 1 farà il firmacopie per il libro. So che è diventato ormai un oggetto di culto questo firmacopie, perché è abbastanza particolare. So per certo che ci sono persone qui che si trascinano il libro da qualche mese, perché non erano riusciti a venire a Borgo San Sergio, al Lunatico, per questa cosa. E Roberto sicuramente sarà qua per... Ho visto che avevano i timbrini. Vai, via con le domande. Tempi supplementari. Cercate di essere brevissimi. Allora, io sono triestino, ma sono di Rovigo. Sì, sì, so bene. E ovviamente sono interessato alla parte territoriale. Tu sei di Ferrara. Sì. Sai che tra Rovigo e Ferrara, qua forse non lo sanno, ma c'è un po' una dicotomia, un dualismo, no? Simile a Trieste e Udine, più o meno, per... Vorrei sapere se hai tenuto anche questo aspetto nel romanzo, perché sono interessato a quella parte lì, anche del rapporto un po' dualistico, no, tra le due città, tra i due territori. Io faccio parte della minoranza ferrarese venetofila, sono per la ferraresische polesanische Freundschaft. Io penso che siamo un unico territorio, le due province, nonostante il confine amministrativo, che abbiamo molto più in comune. Cioè abbiamo molte più cose in comune di quelle che ci distinguono, abbiamo storie di uso del territorio simili, condividiamo il delta, e però abbiamo due parchi regionali del delta del Po, che è un'assurdità. Lì andava fatto un parco nazionale unico, ignorando completamente il confine amministrativo tra le due regioni. Invece esiste un parco del delta del Po Veneto e un parco del delta del Po Emiliano Romagnolo. È una delle tante assurdità dovute ai confini. Ma in realtà poi i confini sono molto relativi, c'è una parte di provincia di Rovigo dove si parla in ferrarese, la cosiddetta Transpadana ferrarese, per motivi storici, perché era parte del Ducato Estense. E in realtà sì, io vedo Cibotto e Bassani come parte di un'unica coinè letteraria e sono assolutamente per l'unificazione dei polesini. Una domanda, perché avendo letto prima il tuo libro, adesso essendo su Mensaleri, ci sono in effetti dei temi comuni, quello di una parte ambientale presente, geografica, forte, quello della magia, insomma di un pensiero un po' più misterico. Mi domando, nell'ecosistema Wuming, tra voi, anche nell'individualità di un libro scritto da uno, quanto emerga poi e quanto ci sia di suggestione anche di tematiche dal dialogo? Sì, allora noi consideriamo chiaramente i nostri libri solisti sempre come parte della produzione della nostra officina, cioè noi non facciamo grosse distinzioni tra solisti e collettivi, la distinzione è economica, i romanzi collettivi dobbiamo dividere le royalties, ecco, diciamo, e quello è un po' l'unico svantaggio dello scrivere collettivamente, è quello del reddito, diciamo, perché per il resto sono solo vantaggi. Ma anche quando ciascuno di noi appunto fa un suo esperimento solista, tra virgolette, si affida sempre agli altri per pareri, per cose. Ad esempio, questa cosa dell'io narrante femminile, quando io ho mandato i primi capitoli ai miei compagni di collettivo per la lettura di prova, Wuming 4 mi ha risposto subito: l'io narrante femminile non l'avevamo mai tentato, è importante che tu stia facendo questo, è importante per tutti. Infatti anche in Mensaleri di nuovo c'è l'io narrante femminile, cioè di una adolescente, in quel caso lì è una delle sottotrame all'io narrante femminile. E quindi spesso nei solisti si sperimentano delle soluzioni che poi verranno usate nei collettivi o si riprendono delle cose già fatte nei collettivi. Qui tornano dei personaggi di UFO 78, negli Uomini Pesce ci sono diversi personaggi che uno proprio compariva in UFO 78 e altri sono evocati, insomma è tutto un gioco di rimandi, non c'è solo UFO 78, c'è anche un piccolo rimando all'armata dei sonnambuli, perché il dottor Steganio ha imparato l'ipnosi all'istituto Dan Blanc di Ginevra, e Dan Blanc era uno dei protagonisti dell'armata dei sonnambuli. È un continuo gioco di riferimenti incrociati senza distinguere tanto tra collettivi e solisti, e poi i solisti si influenzano tra loro, chiaramente, sicuramente Mensaleri è scritto così anche perché prima c'è stato Gli Uomini Pesce, ma a sua volta Gli Uomini Pesce era così per altri motivi, Point Lenale era così perché Giovanni aveva già scritto Il Sentiero degli Dèi, e andiamo avanti così, insomma, e stiamo accentuando sempre di più i riferimenti incrociati tra i romanzi, è una cosa che ci piace molto fare. Grazie, ho letto alcuni romanzi vostri, a cominciare ovviamente da Q. Ho notato che anche in questo siamo sempre sotto i tedeschi, cioè per il periodo partigiano sotto i tedeschi, la pandemia sotto Ursula von der Leyen, che secondo me ha dei riferimenti con Lutero, visto che esattamente 500 anni fa Lutero ha fatto dei discorsi molto violenti nei confronti degli anabattisti, e Ursula ha fatto discorsi sul riarmo europeo, a guida ovviamente tedesca. A unificarli è quel von nel cognome. Quel von nel cognome indica appartenenza all'aristocrazia, anche se credo sia il cognome del marito in quel caso, però comunque l'ambientino è quello lì. Sono gli eredi degli stessi principi a cui Lutero scrisse che potevano sterminare i contadini senza pietà, quindi la continuità c'è. Buongiorno, io avevo più che su quest'ultimo libro una grande curiosità proprio sul vostro modo di lavorare come collettivo quando avete fatto romanzi condivisi. Come sì. Fate a tenere insieme la coerenza di menti creative differenti? Anche lì bisogna essere consci di essere un ecosistema. Appunto, mi sono ritrovato molto nella teorizzazione di Rodrigo Nunes, anche perché è un'esperienza che faccio quotidianamente da 30 anni ormai, perché noi abbiamo cominciato a scrivere Q a fine 95, quindi sono 30 anni spaccati che scriviamo assieme. E non l'avremmo potuto fare se non avessimo valorizzato le nostre idiosincrasie e peculiarità individuali, a valorizzarle al massimo. E noi abbiamo un metodo che chiamiamo la mediazione al rialzo. non al ribasso. La mediazione al rialzo ci consente di valorizzare le nostre diversità protendendoci verso un obiettivo comune molto radicale, cioè quando noi litighiamo, quando arriviamo a uno stallo, quando ci blocchiamo su qualcosa, vuol dire che quel qualcosa non è abbastanza radicale e quindi alziamo la posta, per quello che poi le nostre trame sono così deliranti, perché alziamo la posta continuamente, però nell'alzare la posta, invece che andare a cercare il comune denominatore, quindi mediare al ribasso, andiamo a cercare il comune multiplo. È talmente ambiziosa quella cosa che vogliamo fare che protendendoci, inarcandoci verso quell'obiettivo, i nostri dissidi precedenti scompaiono completamente e ciascuno a modo suo lavora per realizzare quell'obiettivo. Quindi la mediazione al rialzo, però appunto bisogna avere una consapevolezza anche qui ecologica. Ho trovato la parola grazie a Rodrigo Nunes, il fatto di essere un ecosistema piccolo, in questo caso siamo rimasti in tre, ma sempre, cioè si dice in inglese il proverbio three is a crowd, cioè quando sei in due non sei collettivo, basta essere in tre e sei già una dimensione collettiva. Del resto in alcune lingue il duale è distinto sia dal singolare sia dal plurale, ad esempio nel greco antico c'è singolare, duale e plurale, quindi vuol dire due, non è anche in sloveno, ecco, vuol dire che due non è già una dimensione collettiva, è una dimensione intermedia, la coppia non è un collettivo, un terzetto è già un collettivo e quindi è già un'ecologia. È già un'ecologia. Tutto sta nella mediazione al rialzo, dopodiché le procedure cambiano, i metodi cambiano perché cambiamo noi, cambia la fase della vita in cui scriviamo, cambiano i romanzi. Gabriel García Márquez disse: lo stile non è dell'autore, è del libro. Cioè, è il libro che chiede uno stile particolare, cioè, non è l'autore che ne ha sempre uno che usa in tutti i libri, a meno che non sia uno scrittore mediocre, poi ci sono anche quelli, però è il libro che chiede lo stile e quindi tu devi rispondere all'esigenza del libro adottando lo stile adeguato a scriverlo. E quindi non abbiamo una procedura fissa sempre uguale, non abbiamo uno stile verso cui tendere, gli stili cambiano, molti romanzi sono polifonici, hanno molte voci. Tutte le volte che qualcuno in questi 26 anni da quando è uscito Q ha detto ah qui ho beccato un cambio di mano, non l'ha mai azzeccata, perché noi non lavoriamo così, noi non lavoriamo così, cioè non si può vedere il cambio di mano. Se si vede il cambio di stile è perché il cambio di stile è voluto collettivamente, ed è ottenuto con un lavoro di riscrittura certosina che va avanti per mesi. Cioè in realtà quando mi chiedono ma tu quale capitolo hai scritto, io non lo so, nel senso magari mi ricordo di aver scritto la primissima stesura, ma poi è stato cambiato un tale numero di volte, continuando a ruotare tra tutti noi, ci abbiamo messo le mani tutti più volte, poi il lavoro di limatura sulla versione intera del testo e di nuovo intervenendo in bozze eccetera, cioè il lavoro di post produzione è tale che non si può cogliere il cambio di mano, è del tutto impossibile. Ci fanno segno che... Dai Peppe, vai. Anche se in parte hai risposto prima rispondendo a uno spettatore, volevo dirti, tu hai detto, hai usato l'espressione saltare l'asticello, uno scrittore deve sempre sapere in qualche maniera usare, fare qualcosa di nuovo, è stato il fatto di fare l'Io narrante dono sicuramente, ma anche il fatto di avere una soluzione narrativa all'interno del romanzo che ti addirittura costringe a fare delle presentazioni per chi ha letto il romanzo, quindi questa secondo me è un'altra grande novità che è incredibile, anche perché una presentazione in questa maniera è completamente diversa, da un lato anche un handicap perché ti costringe a non parlare certi temi bellissimi che ci sono nel romanzo ma che non li puoi appunto trattare perché sì, sennò vai a spoilerare, come ho detto. E quello che volevo chiederti, che però un po' hai anticipato, è che a parte appunto l'innovazione che hai avuto con queste soluzioni narrative, io ho trovato tantissime appunto eche di tuoi lavori passati, non so se questo lo possiamo definire quasi il tuo romanzo, la tua maturità anche se artistica, non so dirti se è il migliore che hai scritto, ci devo pensare, ma probabilmente forse sì, perché ci sono dei personaggi veramente notevoli e quindi praticamente sì, no, la domanda la domanda era tutti questi echi che io ho trovato fatto su anche Asce di guerra, sulla resistenza, post-resistenza, su oggetti non narrativi, perché quando c'è Sonic hai fatto le pagine finte di Wikipedia che parlano di lui, quindi io ho trovato tantissimi fantastico, eccetera. È stato intenzionale come il fatto di dei personaggi che li hai voluti appunto testare sul punto di vista del Po, anche questo è stato intenzionale, riprendere tutti questi temi dei tuoi lavori passati, tuoi del collettivo, o è venuta una cosa naturale scrivendo? Mi è venuta naturale scrivendo, ma me ne sono accorto a un certo punto, quindi da un certo punto in avanti è diventato intenzionale, il libro è diventato una sorta di summa anche del mio percorso solista, in questo momento io penso che sia l'apice finora, anche io sono convinto, cioè che finora sia il mio risultato più compiuto, quantomeno, però ho già in mente tutto il prossimo libro, quindi io spero di alzare l'asticella ancora di più e complicarmi la vita ulteriormente. Fantastico, grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie mille.